questa fascinosa signora bionda, un po' ageta, l'impronunciabile nome Kwiatkowski, un ex ufficiale militare e poi in seguito dipendente del Ministero della Difesa americano, ha denunciato le manovre compiute sia dal Dipartimento della Difesa americano che dal Pentagono e nonché dall'intelligence per convincere praticamente il paese ad aderire alla guerra. Per arrivare a ciò sono stati assoldati, è il termine giusto, dipendenti di grande prestigio del Washington Institute, sarebbe impossibile elencarli tutti, citiamo David Shank che si è prestato a sostenere tutti i piani dell'amministrazione Bush. Negli ordini che erano partiti dal Pentagono era incluso il divieto di fare riferimento, qualsiasi riferimento positivo ad esempio alla Palestina, perché questo avrebbe compromesso la demonizzazione del mondo islamico desiderata da Bush e dal suo clan. Man mano che passava il tempo, cioè man mano che si avanzava verso la guerra, questa armata di esperti chiamati proprio per rendere possibile la guerra stava divenendo sempre più pittoresca, perché andavano associandosi civili e militari fino ad ottenere un'intelligenza che poi lavorava incessantemente per arrivare il più presto possibile alla guerra. E nel periodo immediatamente precedente, diremmo forse dall'estate del 2002, ne venivano sempre altri, venne chiamato ad esempio un John Luty che addirittura prima delle Torri Gemelle era un dipendente del Ministero della Difesa americano, era stato mandato in Oriente per farsi le ossa, cioè per raccogliere tutta l'informazione possibile affinché venisse poi concretizzata la demonizzazione del mondo arabo islamico. E per ingannare l'opinione pubblica i tecnici, chiamiamoli così, andavano raffinando sempre più i propri metodi di convincimento e non trascuravano alcun particolare. Un particolare forse invece umoristico è che quanto loro affermavano nei loro rapporti doveva necessariamente combaciare per far apparire sia la guerra urgente oltre che inevitabile, ma doveva anche collimare con quello che poi Bush, Cheney e gli altri delle altre sfere della Casa Bianca avrebbero poi pronunciato in pubblico. E tutto doveva cominciare direttamente ed era scontato che nei rapporti si addebitava a Saddam Hussein praticamente ogni male del mondo, dovuta a preponderanza al tema delle armi di distruzione di massa, escogitato proprio per far presa non più soltanto sull'opinione pubblica americana, ma su tutta l'opinione pubblica internazionale. Per perfezionare questo quadro sopravveniva poi un'altra squadra di esperti che ripassava tutto al setaccio e come tocco finale il clan Bush dava la propria approvazione. La signora Kwiatkowski, scusate, è un nome veramente impronunciabile, ricorda che questi esperti poi si facevano pressione l'uno con l'altro per arrivare alla guerra al più presto possibile. E a questa signora che ha rivelato tutte le manovre della combina per arrivare alla guerra, è stato poi affibbiato il termine di traditrice e oggi si è ritirata, è andata in pensione, dice disgustata da quanto poi le è toccato vedere all'interno del Ministero della Difesa. Bianca Cerri per Reporter Associati e Amisnet Radio.